Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ci stiamo unendo, ci stanno aspettando le università, gli studenti medi, a partire dalle scuole elementari, per dare una risposta secca, un no alla Gelmini. Questa riforma non va bene, perché continuano a dire che siamo il paese più ignorante, poi ci tolgono tutte le ore, ce le dimezzano. Diventeremo tutti più ignoranti senza trovare un lavoro, diventeremo poveri mentre i figli di papà andranno nelle scuole private. Siamo di fronte a una scuola pubblica che sta completamente scomparendo, cioè molte scuole probabilmente dall'anno prossimo non esisteranno più, molti professionali, sempre più tagli, e questo vuol dire anche meno laboratori. La scuola di Lupidia! E oggi ve la dimostreremo! Eccole qua le voci della protesta di ieri a Milano, insegnanti, studenti e genitori chiamati in piazza dai sindacati autonomi contro le idee del ministro Gelmini. Il 30 si replica con lo sciopero dei sindacati confederali. Noi chiediamo che i bambini e i ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole superino un test di ingresso, un test linguistico. E l'avete capito, parliamo ora della mozione della Lega per introdurre anche nel nostro paese classi di inserimento per bambini e ragazzi che arrivino nel nostro paese e non parlino la nostra lingua. Questa era la voce del rappresentante della Lega Cota, ne abbiamo parlato molto questa settimana qui su Radio 24. L'argomento è davvero molto delicato, perché da un lato non bisogna mai dimenticare il diritto di ogni bambino a non sentirsi discriminato, dall'altro va preso atto che il problema della presenza ormai massiccia nelle nostre scuole degli studenti stranieri davvero esiste. Per esempio, consentitemi il paradosso, possiamo dire che in alcune realtà le scuole solo per immigrati in realtà già esistono, come a Torino la scuola elementare Fiocchetto, con una classe di soli bambini stranieri, molti però nati in Italia, o la scuola elementare Radice di Milano. Pensate, l'88% degli alunni è proprio straniero. Allora, la nostra Chiara Romanello è andata proprio fuori dalla scuola Radice a raccogliere qualche voce delle mamme dei pochi bambini italiani che la frequentano e delle mamme straniere. Arabo, inglesi, tutti insieme, capito? Allora, hanno detto che quando loro stavano in altra classe sentivano che loro sono così. In Italia non sono genti, non hanno rispetto, capito? Qualcuno dice che il fatto che i bambini stranieri studino con quelli italiani e magari quelli stranieri non sanno bene la lingua italiana possa rallentare le classi, quindi rallentare i bambini italiani. No, questo non è giusto. Questi bimbi in atto qua, questi bimbi italiani. Vede che questa scuola tutti gli stranieri, non c'è gli italiani, c'è poco, quasi 3 o 4 bambini, dal prima al quinta. Perché? Perché gli italiani non vieni con gli stranieri. Come vi trovate voi in una scuola con tanti studenti stranieri? È un po' indietro mia figlia con gli studi, perché ci sono tanti stranieri che non riescono a capire l'italiano. E poi una mamma italiana deve portare a sua figlia fuori da questa scuola e metterla in un'altra scuola. Hanno dei bambini che arrivano integrati in terza o in quarta, che non conoscono bene l'italiano o che non sanno contare, se non fino a 10. A quel punto non so fino a che punto sia giusto che loro aspettino questi che devono recuperare. Dovrebbe forse la scuola fare qualche cosa, non so, dei corsi di recupero, o essere affiancati, diciamo, da qualcuno che possa seguire meglio questi bambini. Insomma, il problema esiste, bisogna capire come affrontarlo nel rispetto dei diritti di tutti, cosa non sempre facilissima. Allora, per trattare una materia così delicata, meglio far parlare chi ha vissuto sulla propria pelle gioie e dolori dell'inserimento in una scuola del nostro paese senza conoscere bene l'italiano. Mohamed Talmund oggi ha 35 anni ed è un immigrato di seconda generazione, fa parte infatti dell'associazione G2. Sono arrivato in Italia a 6 anni, mi sono iscritto scuola qui a Roma, la scuola statale in Libica, ho frequentato fino alla terza media, poi il momento in cui dovevo iscrivermi al liceo, non c'era un liceo nella scuola in Libica, quindi mi sono iscritto al liceo scientifico, liceo italiano, e lì ho potuto, come dire, anche apprendere a scrivere l'italiano, perché per esempio non sapevo scrivere bene l'italiano. Quindi tu lo parlavi, ma lo leggevi e lo scrivevi malino, insomma. Sì, sì. Com'è stato l'impatto? Sicuramente non facilissimo, però anche da parte della scuola, insomma, delle scuole, degli insegnanti, anche degli equitani, si era privilegiato più che altro l'aspetto della socializzazione, no? Fra coetanei, quindi... A livello proprio di studio, quali erano le tue maggiori difficoltà? Ma io mi ricordo che ero bravo in materie tipo storia, geografia, anche fisica, eccetera. Le mie maggiori difficoltà erano la letteratura italiana, ma perché era difficile... come dire, leggere e comprendere benissimo l'italiano, anche un italiano, no, piuttosto complesso, che ne so, che si sposi, era un testo abbastanza difficile anche per uno studente medio italiano, però sono difficoltà che sono riuscito a superare, anche perché poi facevo il pomeriggio corsi magari di italiano, eccetera, e ho potuto superarla. Extrascolastici, naturalmente, questi corsi, nel senso che la scuola non ti ha offerto un aiuto specifico? Non erano corsi scolastici, erano corsi extrascolastici. Quindi tu da solo, con la tua famiglia, hai deciso comunque di seguire dei corsi di italiano al pomeriggio che ti aiutassero indirettamente, ovviamente, sì, anche sì, a scuola, ho capito. Certo. E gli insegnanti ti sono venuti incontro, cioè hanno studiato su di te un percorso, diciamo, più specifico? Gli insegnanti no, mi hanno dato sicuramente il tempo, insomma, di imparare e capire anche, no, perché c'era anche un'organizzazione della didattica diversa rispetto alla scuola da cui venivano, e mi sono venuti incontro, e poi soprattutto hanno valorizzato molto anche la cosa dello scambio, no? Per cui c'era uno studente che veniva che era vissuto in Italia sempre, che a Roma nello specifico, che aveva un'altra, no? Aveva altre conoscenze, ad esempio io conoscevo molto bene la geografia del mondo arabo perché avevo studiato a scuola, conosco bene la lingua araba, la storia, no? La cultura araba, eccetera, e quindi mi spingevano anche in classe molte volte nei momenti, diciamo così, di pausa, eccetera, che ne so, a scambiare, no? Conoscenze con i miei coetanei sulle nostre... Su quello che sapevi meglio tu, certo, sulla realtà, sì, che sì, conoscevi tu, quindi c'è stato un po' uno scambio fra te e i compagni. Anche, sì, i miei compagni a spiegarmi, a incuriosirmi verso le cose che sapevano meglio, che era una cultura, no? Cultura italiana, letteratura italiana, eccetera. E i tuoi compagni come ti trattavano, come, insomma, si rapportavano con te? Ti vedevano come diverso oppure l'integrazione è stata immediata, è stata semplice? Diciamo, il clima della scuola lo fanno un po' anche, no? Il clima che riescono a instaurare gli insegnanti, l'istituzione, no, scolastica, per cui c'era un clima in cui si favoriva e si incoraggiava la curiosità, il rispetto reciproco, per cui c'era questo clima, insomma. Da noi dunque si parla di scuole di inserimento, in altri paesi europei esiste già qualcosa di simile, la scheda curata da Chiara Romanello. In Germania l'educazione di bimbi e ragazzi immigrati passa attraverso la Sonderschule, una sorta di scuola differenziale, separata dal contesto dell'istruzione primaria e secondaria, nata originariamente per gli studenti con handicap e gravi difficoltà di apprendimento. L'alunno è segnalato dall'insegnante e spostato in una classe differenziale, dove segue dei programmi ridotti. In teoria è possibile il passaggio alle scuole normali, ma questo raramente accade. Raro anche l'ingresso all'università. Spostiamoci in Francia. Da oltre 20 anni esistono le classi di avvio alle elementari e le classi di accoglienza alle superiori. Ai ragazzi immigrati viene sottoposto un test di lingua e, se non lo superano, vengono inseriti in questi percorsi paralleli per circa 9-12 mesi. Poi possono essere reinseriti nelle classi normali. Questo nelle grandi città. Nei centri più piccoli, invece, sono previsti solo corsi di insegnamento della lingua francese. Infine, la Finlandia, il paradiso dell'educazione, riconosciuta come uno dei paesi con il sistema educativo migliore. Qui i bambini appena arrivati da altri paesi frequentano dei corsi di un anno per prepararsi all'ingresso nella scuola dell'obbligo, che dura di solito dai 7 ai 17 anni, corsi che possono essere anche organizzati nella madrelingua dei bambini e devono tenere conto delle loro lacune nella preparazione. Poi l'inserimento nelle classi normali, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti da una legge dello Stato che pone tra i doveri del professore l'uguaglianza dell'educazione. E da lunedì nel GR Extra Large delle 13 cominceremo proprio un viaggio fra i paesi che all'estero utilizzano già qualcosa di simile alle classi separate proposte dalla Lega. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.